Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori è con l'avvocato Gioia Barbato dello studio legale dell'Adico. Ben trovata. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di turismo, vicende che non sempre sono a lieto fine, ne abbiamo raccontate tante, questa invece pare di sì. Esatto, sì, questa volta dobbiamo contare un bel successo di Adico. Infatti in questo caso il nostro socio è riuscito ad ottenere un rimborso da parte del Fondo Nazionale di Garanzia. E si tratta di un socio di Noventa di Piave, quindi insomma, della zona, che è riuscito ad ottenere un rimborso di ben 2.539 euro per la mancata fruizione di un pacchetto turistico per la Grecia, che era stato acquistato nel 2009. Nel caso di specie era accaduto che il tour operator, nella fattispecie il tour operator Todomondo, era fallito, quindi lasciando un buco di ben 15 milioni di euro e migliaia di viaggiatori truffati. In questo caso il nostro socio, tramite noi di Adico e tramite una precisa istanza al Fondo Nazionale di Garanzia, che è un fondo che fa parte del Consiglio dei Ministri, è riuscito ad ottenere questo rimborso, insomma, per la mancata fruizione del pacchetto turistico. Ecco, vicende ne hanno avvenute anche di clamorose negli scorsi anni, infatti è stato attivato da qualche tempo questo fondo nazionale, insomma un cuscinetto su cui possiamo dire si può cadere morbidamente e poter ottenere un rimborso, che comunque è significativo, è pari alla spesa che aveva fatto, cioè aveva ottenuto il 100% oppure solo una parte? Sì, guarda, il 100% del prezzo corrisposto per il pacchetto turistico. Ricordiamo poi che questo tipo di risarcimento, questo tipo di rimborso opera sia nel caso di fallimento dell'organizzatore, quindi del tour operator, sia dell'intermediario, quindi l'agenzia di viaggio o chi per lui, insomma. E quindi in tutti questi casi in cui ci sia uno stato di insolvenza o di fallimento, l'utente può chiedere attraverso una domanda che deve essere inviata direttamente al Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, può inviare questo tipo di istanza ed ottenere non nell'immediato, perché ricordiamo che questa storia risale al 2009, quindi c'è a distanza di 3-4 anni, può comunque ottenere il rimborso di quello che aveva corrisposto per la vacanza, insomma, ecco. Allora, basta cercare anche sul sito del governo, www.governo.it, si cerca Fondo Nazionale di Garanzia e si possono trovare appunto tutti i dettagli, informazioni, perché appunto i soldi sono stati stanziati e abbiamo capito una volta tanto, diciamo una cosa buona, che della pubblica amministrazione, che i soldi arrivano, insomma, se uno ne ha diritto. Ah beh, sì, certo. Beh, questo è un caso positivo finalmente. Dopo tanta sfiducia e tanta, insomma, finalmente ci troviamo ad avere un caso positivo. Ecco, ricordiamo che l'Adico ha anche a disposizione sul sito un apposito settore da quando ha riformato, diciamo così, il sito associazionedifesaconsumatori.it. C'è un apposito settore proprio dedicato alle vacanze, perché le vacanze purtroppo non sono sempre così serene, ma sono spesso fonte di disagio. Esatto, c'è un apposito vademecum con tutti i contenuti relativi alla vacanza informata, che noi consigliamo vivamente ai nostri soci di visionare e di prendere, insomma, coscienza prima di appropinquarsi, insomma, a queste vacanze che ormai sono molto vicine. Eh sì, e sapere cosa fare prima e cosa fare eventualmente dopo, se il problema dovesse insorgere dopo. Ma alla fine questo socio riuscì poi 4 anni fa ormai a andare in vacanza, oppure aveva rinunciato completamente? No, purtroppo ormai aveva rinunciato completamente, però comunque nonostante la rinuncia poi è riuscita, insomma, a fruire di questo rimborso, insomma, almeno nel negativo è riuscito poi comunque ha perso la vacanza ma non ha perso i soldi. Sì, esatto, insomma. Ecco. Va bene, esatto. Poco male nel complesso. Allora, ha guadagnato i termini economici, dai, sì, almeno. Sì, esatto, ha recuperato. Insomma, attenzione dunque alle agenzie e a tutto questo mondo che si muove intorno, perché fallimenti purtroppo sono all'ordine non del giorno ma all'ordine dell'anno, perché uno all'anno, insomma, lo leggiamo purtroppo. Una bella storia dunque a lieto fine. Con l'Adico ci ritroviamo tra un paio di giorni, grazie all'avvocato Gioia Barbato, buona giornata. Grazie a te, saluti a tutti.